contro il Tottenham. Per il patron, Inter totalmente da rivedere. È mancato sia il gioco sia il carattere per poi far sì che il gioco venisse. Se non altro bisogna rendersene conto e capire che certo non è così che si possono raggiungere i traguardi. Moratti ha poi definito adeguato il gesto delle tre dita di Mourinho rivolto ai tifosi del Milan. È piaciuto anche a Materazzi, come sempre ha detto, ha dimostrato di avere tanto sangue nelle vene. Intanto sembra non esserci stata alcuna pace tra Materazzi e Zidane dopo la testata nella finale mondiale del 2006. Il francese chiederà a Marca la smentita di quanto scritto dal quotidiano spagnolo del presunto abbraccio con l'interista nell'hotel milanese dove si trovava Materazzi per salutare Mourinho. Zidane avrebbe stretto la mano all'ex azzurro soltanto perché colto di sorpresa dall'incontro avvenuto fortuitamente nel parcheggio dell'albergo. Capitani contro a colpi di ironia verso il derby di domenica Lazio-Roma, match affidato a Morganti. Tommaso Rocchi replica così a Francesco Totti, che salterà la stracittadina per squalifica. Lui ha detto che noi vinceremo con un rigore di Floccari, allora noi eravamo più contenti se lui stava in campo e quindi invece non ci sarà e forse sarà un vantaggio per loro. Cambiamo argomento, basket. Real Madrid spazza via la Lottomatica Roma, fischiata dai propri tifosi. Nel terzo turno della prima fase di Eurolega gli spagnoli